E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, questa è la Conta, trasmissione di Radio Onda Rossa che va in onda ogni mercoledì e oggi difatti è mercoledì 2 di novembre e dunque da questi microfoni vi giungano così gli auguri di buona giornata, di buon ascolto e soprattutto di buona libertà per coloro che ne sono privati o private. In apertura, come facciamo sempre quando ci sono appunto i saluti e gli auguri che rivolgiamo a coloro che sono in carcere, in particolare poiché sono stati appunto arrestati di recente, i compagni arrestati a seguito della manifestazione del 15 ottobre, del sabato 15 ottobre, a loro mandiamo un caro saluto. Tra l'altro questa mattina si è svolto alla Piazzale Clodio, al Tribunale, il riesame per gli arresti, però non si sa ancora la conclusione, cioè la motivazione, la sentenza. Comunque intanto gli auguri e i saluti e gli auguri di una rapida liberazione la mandiamo a Fabrizio, a Giovanni, a Giuseppe, ad Alessandro, ancora a Giovanni, a Lorenzo, a Valerio, a Stefano, a Robert, a Leonardo, a Carlo, a Ilaria che si trova al femminile di Rebibbia e poi anche ad Alessia e ad Alessandra che sono ai domiciliari. E dunque, come abbiamo già detto la volta scorsa, questi arresti sono arresti a seguito di una manifestazione che ha visto centinaia di migliaia di persone, dicono addirittura 200-300 mila se non più, sfilare per le vie di Roma, una manifestazione che poi si è conclusa con degli tafferugli, degli scontri tra polizia e dimostranti, che comunque sia ha investito come parte attiva dei manifestanti diverse migliaia di persone. E la polizia ne ha arrestati 13-15 secondo. Questo che cos'è se non il rito del capro espiatorio che normalmente tutti i sistemi di potere, purtroppo da sempre, da quando appunto ci sono dei sistemi di potere, usano per intimorire, per terrorizzare la popolazione. In realtà il carcere poi non è altro che l'esemplificazione del rito attuale, moderno, del capro espiatorio. Perché se questo vale ed è esplicito durante una manifestazione o se volete qualunque altro scontro di massa, cioè di molte persone, a volte uno scontro di centinaia o di migliaia di persone, la polizia ne arresta 4-5, caso sintomatico furono le manifestazioni di Genova, anche lì 400-500 mila, non so, 300 mila, comunque tantissime persone per tre giorni si sono scontrate con le forze dell'ordine, sicuramente una buona metà, quindi oltre 100 mila persone ha partecipato a questi scontri, perché aggredite dalla polizia ovviamente hanno risposto e alla fine sono 10 le persone che invece diciamo pagano per tutti, una sorta di peggio della decimazione. Quel rituale barbaro, veramente barbaro nel significato più triste della parola, e però il carcere è poi quello, chiunque sta in carcere a qualunque titolo, un furto, una rapina, qualunque altra cosa sta in carcere, in realtà è stato messo là dentro ad omaggio del rito del capro espiatorio, perché le statistiche lo dicono chiaramente, soltanto il 2,5%, 2,7%, 2,7%, cioè no, facciamo cifra rotonda, perché il 3%, non oltre il 3% delle violazioni di legge trovano un responsabile o una responsabile. Quindi è chiaro che anche qui si usa il caso del capro espiatorio. Per cui quando noi appunto semplifichiamo, perché è più semplice, no? La manifestazione, lo scontro, dice tutti hanno visto migliaia di persone partecipare a questo scontro, ne arrestano 10, appunto è un i capri espiatori, ma anche vale anche sul terreno sociale, perché se è vero che non si il 3% credo di essere molto al di là, perché credo che sia intorno al 2%, forse anche meno, comunque alcune statistiche dicono dell'1,7%, comunque sia non ha importato 2 o 3%, sono sempre cifre minime, cioè se soltanto per esempio dei furti, soltanto il 2% di coloro che commettono i furti viene individuata e messa in galera, vuol dire che appunto quella è quel sistema di giustizia, di carcerazione, si fa in omaggio del rito del capro espiatorio. Non c'è niente di giustizia, di logica, c'è semplicemente appunto un terrorizzare alcuni, cioè punire alcuni per terrorizzarne molti, non è altro il sistema della giustizia, non solo italiana, in generale. E va bene, vogliamo però affrontare un tema appunto molto, questo è attuale, attuale però è permanente, a volte assume un carattere più, come dire, più esplicito, è chiaro per tutti, appunto da una manifestazione si vede con chiarezza diciamo la logica del lo Stato attraverso le sue forze dell'ordine usa il sistema, il rituale del capro espiatorio, però appunto anche nel sociale. E però tornando ai temi di oggi, no, ci sono dei temi molto importanti che vanno a incidere anche nel carcere, e vedremo questo rapporto tra carcere in Italia e carcere negli Stati Uniti. Qual è il problema di oggi? Ce lo dicono 70 volte al giorno, quindi lo sappiamo, c'è la crisi. C'è la crisi, quindi non hanno soldi. Gli stati, i governi addirittura non solo non hanno soldi per tener fede ai propri impegni, impegni ne fanno tanti a parole, ma ovviamente non li mantengono, ma anche non hanno soldi per mantenere in piedi le strutture che hanno messo, che viaggiano, per esempio le carceri. Allora, partiamo dall'Italia, poi andremo faremo un balzo oltreoceano. Allora, in Italia, leggiamo un articolo del Sole 24 Ore, quindi un giornale che non è sospettabile di essere estremista, però dice una cosa molto chiara. Nell'articolo dell'altro ieri, del 31 ottobre, individuava come sono terminati i soldi della smuraglia. Ed è emergenza per il lavoro dei detenuti. Ora, la legge smuraglia, per chi non lo sapesse, è una legge fatta ad hoc, in particolare per l'avvio al lavoro dei detenuti. È una legge che dà delle facilitazioni di vario tipo per quelle ditte, cooperative, aziende che danno lavoro agli ex detenuti o anche ai detenuti. Sapete che un detenuto raggiunto una certa quota, diciamo, degli anni della condanna, espiati, così si dice, una certa parte della condanna può accedere al lavoro esterno, ovviamente deve avere un lavoro. E allora per favorire questo l'avvio al lavoro dei detenuti o anche degli ex detenuti, quelli che escono dal carcere, si era messa in piedi questa legge smuraglia, una legge che dice semplicemente il nome del primo firmatario, smuraglia, dice semplicemente dà delle facilitazioni per incentivare il lavoro dei detenuti dentro o fuori dal muro di cinta. Sono facilitazioni abbastanza buone, per esempio una ditta, secondo la percentuale di ex detenuti o detenuti a cui dà lavoro, ha delle facilitazioni fiscali, quindi degli sgravi fiscali, e quindi è incentivata ad assumerli, in modo che quando una persona finisce il carcere, insomma, è più probabile che trovi lavoro e quindi che non venga reimmessa nel circuito che l'ha portato a delinquere, a finire in carcere. Queste sono parole di quelle della legge, non usiamo queste parole qua, però per dire, questa era la filosofia che ha guidato una serie di leggi. La smuraglia è l'ultima, è quella che completa un po' tutte queste tante leggi, leggine, provvedimenti parziali che tendevano ad incentivare appunto le aziende, le ditte, le cooperative ad assumere detenuti o ex detenuti. Questo perché anche la filosofia appunto di questa legge non era un fatto umanitario, non è che erano buoni, ma le statistiche dimostravano che coloro che quei detenuti e detenute che concludono la loro condanna con un lavoro esterno o interno, quindi appena quando escono dal carcere a fine pena, avendo già iniziato il lavoro in semilibertà, hanno subito riprendono diciamo l'attività lavorativa, continuano l'attività lavorativa, di coloro appunto che lavorano dentro e fuori al carcere la percentuale di chi torna a commettere reati è molto minore. In pratica, coloro che attuano una recidiva, cioè ricompiono il reato per il quale erano venuti in carcere, per quelli che hanno un'attività lavorativa, quindi hanno utilizzato le misure alternative grazie al lavoro interno ed esterno, sono il 18-19%. Coloro che non hanno invece un lavoro sono molti di più, il triplo. E quindi è un, hanno capito che conveniva allo Stato a fare questa legge in modo che incentivare le ditte ad assumere lavoratori, assumere ex detenuti o detenuti, poteva rallentare. Bene, certo, adesso c'è la crisi e quindi ovviamente ogni anno questa legge smuraglia andava finanziata, perché questi sgravi che venivano dati alle ditte per assunzione di detenuti o ex detenuti venivano rimborsate dallo Stato. Adesso dicono i soldi non ci stanno più e quindi la legge smuraglia è bloccata. I fondi sono finiti e non c'è aria di rifinanziamento. Leggiamo l'articolo. E ai datori di lavoro non resta che scegliere tra continuare a occupare i detenuti con inevitabili passivi economici oppure cambiare strada. La crisi non aiuta, ma potrebbe diventare l'occasione per misurare per misure più strutturali anche sul carcere, per farne del carcere un luogo produttivo per la sicurezza collettiva e lo sviluppo del paese. Quindi vedete, loro, è chiaro, il Sole 24 Ore, ragionano in termini di sicurezza della società, quindi cercano la strada perché ovviamente dal loro punto di vista vengano commessi meno reati, no? Soprattutto nei confronti del patrimonio, e quindi dicono la legge smuraglia probabilmente non verrà finanziata, così si dice, perché non ci stanno i soldi. E però questa crisi potrebbe permettere, quindi, invece di utilizzare, come è stato fatto fino adesso, delle leggi che appunto risultassero un po', come dire, da pecetta al problema grave di chi sta in carcere, perché appunto è soltanto una facilitazione alle imprese, alle cooperative che assumono detenuti, mentre invece bisognerebbe fare, dice qui il Sole 24 Ore, che bisognerebbe fare del carcere un luogo di formazione di lavoratori e di avvio al lavoro, quindi più strutturale, che tutto il carcere diventi una struttura atta a avviare alla professione, al lavoro, tutti coloro che vi capitano, in modo che poi una volta fuori continuino la loro vita. È un sogno questo, abbastanza ridicolo comunque secondo me, però insomma loro questo dicono. Cioè utilizzare questa crisi per, visto che la smuraglia, questo diciamo, aggiustamento non funziona più, per farne del carcere un luogo diverso, non più di espiazione passiva della pena, ma di attivizzazione al lavoro di coloro che vi capitano dentro. Quindi in maniera chiedono che il carcere torni ad essere quello che era all'inizio, il workhouse, così si chiamavano le prime carceri, case di lavoro, workhouse appunto. Poi, se volete, lavori forzati, ossia che poi che il forzato adesso sarebbe addolcito perché questi stati dicono di essere democrati, però sempre diciamo il carcere come obbligo alla disciplina del lavoro. Per quello è nato il carcere, quindi tornerebbe ad essere così. E poi vi sono dei dati. Il carcere attualmente, in carcere lavorano non oltre il 20% dei detenuti, quindi l'80% non fa nulla. E questo è un fatto grave, anche perché molti di quell'80% non hanno qualche amico, familiare che gli manda due soldi e quindi in carcere c'è una lira. Per esempio non puoi fumare perché non devi, sei costretto a mangiare quello che passa l'amministrazione, che si chiama la famosa famigerata casanza e che è una sbroda di difficile ingurgitamento, difficile da mandare giù, insomma il cibo in carcere è veramente nocivo e tossico. E quindi soltanto il 20% attualmente lavorano. Se addirittura venissero tagliati i fondi della smuraglia, probabilmente questa percentuale è destinata a diminuire. Questo, secondo appunto il Sole 24 Ore, rompe le possibilità della risocializzazione di coloro che stanno in carcere, detenuti e detenute. Infatti qui dice che, infatti eccolo qua, dice: qualche anno fa è stato calcolato che la diminuzione di un solo punto percentuale di recidiva, cioè se i detenuti che escono tornano a commettere il reato, la percentuale, se questa percentuale va, che ne so, dal 15 al 16%, quindi un punto in percentuale di recidiva, se soltanto si riesce a diminuire di un punto la recidiva, cioè coloro che ritornano, se soltanto si riduce dell'1% coloro che tornano a commettere reati, il risparmio per la società è di circa 51 milioni di euro l'anno. E quindi, dice appunto, col lavoro pare che si diminuiva la recidiva del 40-45%, quindi il risparmio era notevole. Come 45 moltiplicato per 51 milioni, il risparmio è notevole. Non a caso, continua l'articolo, in Inghilterra, dove altissima è l'attenzione alla recidiva, il governo riconosce ai sottoscrittori di titoli che hanno consentito ai detenuti di lavorare una parte dei risparmi derivanti dall'abbattimento della recidiva. In Inghilterra fanno così, loro sono molto pragmatici, no? Dicono, poiché io per ogni detenuto risparmio che non torna a commettere reati, quindi che non è recidivo, che esce dal carcere e non commette più reati, risparmio 51 milioni l'anno, per ogni, una parte di questi li do a coloro che consentono ai detenuti di lavorare esterni. Quindi non la smuraglia che dice indirettamente diminuisco le tasse a coloro che danno da lavoro ai detenuti, ma io ti do proprio a te cittadino, esempio, tu prendi un ex detenuto, un detenuto che esce dal carcere, lo prendi a lavorare, che ne so, lo metti nel bar tuo a fare il barista oppure nella fabbrichetta oppure dove ti pare, ti do una parte di questi 51 milioni che risparmio se il soggetto non torna a delinquere. Questi sono ragionamenti molto, però questi sono i ragionamenti che fanno coloro che hanno in mano il carcere. Questi sono i ragionamenti meno pericolosi, anche se a noi ci sembrano un po', come dire, cinici. Gli altri discorsi sono quelli invece della vendetta, quelli punitivi, quelli proprio beceri, quelli primordiali, quelli di essere abietti, quindi questi purtroppo tra coloro che hanno in mano le chiavi delle serrature del carcere sono, che dire, quelli con cui ci si può confrontare, anche se noi non, nessuna di questa parola condividiamo, però è chiaro che quegli altri sono per punire, far soffrire, sono proprio dei mentecatti. Vabbè. Comunque seguiamo quindi questo ragionamento. In Inghilterra fanno così, e difatti poi porta i dati, nell'anno appena passato, il 2010, con la legge smuraglia, sono stati assunti da cooperative sociali ben 518 detenuti, mentre 348 hanno lavorato presso aziende private, quindi sono circa 850, quasi 900 detenuti che hanno lavorato o presso cooperative sociali o presso aziende, grazie alle facilitazioni della smuraglia. Della legge smuraglia, che adesso verrebbe bloccata perché non ha i soldi per essere rifinanziata. E qui poi altri dati, insomma, comunque sono i semilibri sono circa 2000, comunque quello che ci interessa a noi, la chiusura dei rubinetti della smuraglia, cioè il non rifinanziamento di questa legge, è destinata ad aggravare l'emergenza carceraria. L'Italia è seconda in Europa soltanto alla Serbia quanto a tasso di sovraffollamento, in Italia il 148%, ma i tassi di criminalità sono piuttosto bassi, sono 4.500 reati ogni 100.000 abitanti, contro i 5.147, quindi 600 in più in Spagna, i 5.560 in Francia, quindi 1.000 in più, gli 8.481 in Germania, quindi 3.000 in più, e i 7.400 in Inghilterra, quindi 3.000 in più. Quindi ha un tasso di criminalità tra i più bassi, diciamo, della media europea, eppure ha un livello di sovraffollamento tra i più alti, anzi il più alto, perché è seconda soltanto alla Serbia. Il sovraffollamento, però la Serbia ha una situazione particolare, come sapete è uscita da una guerra civile, quindi queste cose portano sicuramente scompenso e difficoltà, quindi potremmo dire che l'Italia è il primo paese quanto a tasso di sovraffollamento tra i paesi, diciamo, che hanno vissuto gli ultimi 50-60 anni, diciamo, senza guerre, eccetera, eccetera. Il sovraffollamento è figlio della politica, sempre l'articolo, stiamo leggendo il Sole 24 Ore, il sovraffollamento è figlio della politica della tolleranza zero, tutto va punito con il carcere, e della stretta sulle misure alternative alla detenzione. Il rubinetto delle misure alternative è stato chiuso, non perché è intervenuta una legge, ma perché in realtà pare che in Italia, questo lo diciamo noi, non lo dice il Sole 24 Ore, però ci sono studi analitici molto attenti che dicono che in Italia, in questo paese, per quanto riguarda la giustizia, soprattutto per quanto riguarda quella parte di magistratura che si occupa di permettere ai detenuti di accedere alle misure alternative, cioè di andare in semilibertà, in affidamento in prova ai servizi sociali, in libertà condizionale, è molto più sensibile a ciò che dice la stampa che a ciò che dice la legge. Questo è un fatto molto grave, eppure è un fatto, nel senso che se in un periodo i giornali strillano «Ah, quello è appena uscito di galera, era in permesso e ha commesso un reato», i giudici tengono più conto dello strillo di quei giornali che spesso dicono delle cose anche a vanvera, spesso, sempre dicono delle cose a vanvera. Il giornale è definito comunemente il buciardo, perché no, qui a Roma e in altri dialetti con termini analoghi. Eppure il giudice, in quando i giornali strillano queste cialtronerie, stringono i cordoni delle misure alternative. Quindi conta più il giornale che non la legge in questo paese, ma non solo in questo, in quest'epoca, diciamo, che è una triste epoca, chiaramente, anche soprattutto per coloro che amano diciamo il diritto costituzionale, lo Stato di diritto, queste cose qui. Per loro è stata una sconfitta clamorosa, perché lo Stato di diritto è stato affossato dallo Stato dei media. Lo Stato, in realtà, le politiche, la politica della giustizia, quindi la politica sulle carceri, tutto quanto viene condizionato non tanto dalle leggi scritte, Costituzione o leggi ordinarie, quanto dagli strilli della stampa. Quindi conta più la stampa, i media, la stampa per dire tutti i media, probabilmente la televisione conta più della stampa, però per dire i media, ecco, contano di più. Quindi è da uno Stato di diritto a uno Stato dei media siamo passati, che è un salto all'indietro di qualche millennio. Va bene. Continua e termina che appunto questo articolo del Sole 24 Ore che dice appunto, nonostante, dice, questa cosa della tolleranza zero, che è una cazzata enorme, lo dice il Sole 24 Ore, non lo diciamo noi, che ha creato appunto una stretta alternativa sulle misure alternative alla detenzione, nonostante che appunto le statistiche continuano ancora oggi a dire che coloro che scontano l'intera pena dietro le sbarre, per coloro che scontano l'intera pena dietro le sbarre, la recidiva, cioè il commettere il reato dopo la scarcerazione, è 3 volte superiore, quindi rispetto a chi sconta la condanna in finale e nella parte finale della condanna in misura alternativa. È il 68% contro il 19%, ossia coloro che scontano fino all'ultimo giorno in carcere, per esempio quello che ogni tanto strilla la Lega, no? Questi poveri dementi, perché si dicono, come dicevano, la certezza è la pena, bisogna stare in galera fino all'ultimo giorno. Bene, quelli che stanno in galera fino all'ultimo giorno, poi quando escono, ovviamente, commettono reato al 68%, quindi quasi tutti tornano a commettere. Quelli che invece nella parte finale della pena riescono a trovare un'occupazione, quindi escono in misura alternativa, che ovviamente sono legati a un lavoro, sono soltanto il 19%, tornano a reale. Quindi, nonostante questo, dice, i cialtroni che il governo, questo lo dice il Sole 24 Ore, hanno puntato come se fossero dati la zappa sui piedi, oppure evidentemente a loro questo sistema caotico gli va bene, o perlomeno ci si ritrovano a pieno titolo. Be my girlfriend forever and a day. this way. I'm not the kind of guy who dresses like a king. And a really fine pair of shades means everything. And the light that blinds my eyes shines from you. They cost a lot. I hope I don't break up. I hope we don't break up. Allora, facendo sullo stesso argomento, no? Sembra facendo un salto dall'altra parte dell'oceano, e quindi negli Stati Uniti. Noi, come sapete, teniamo sempre d'occhio la situazione carceraria negli Stati Uniti, un po' perché la situazione è una delle più drammatiche del mondo, sia per numero di persone carcerate, sia per condizioni. È anche uno dei settori del mondo statunitense, quello carcerario, che è abbastanza vivace, attivo, succedono cose, cioè, anche perché sono 5 milioni le persone private della libertà negli Stati Uniti, non è uno scherzo. E con situazioni carcerarie che sono al limite della vivibilità. E poi perché mette bene in luce questa doppiezza, questo doppio registro che c'è in questo paese. E infine perché in quello che succede negli Stati Uniti d'America in genere dopo un po' di anni succede in Europa. Quindi è bene tenere da conto, cioè presente ciò che assolutamente. Tanto è vero che l'incremento, considerate che negli anni 90, quindi diciamo nei primi anni 90, 91-92, i detenuti nelle carceri statunitense erano 400.000, 45, non arrivavano a mezzo milione. In questi 15 anni, quindi dal 95 diciamo al 2010, in questi 15 anni sono diventati oltre 5 milioni, 5 milioni e mezzo. E un incremento spaventoso, no? E non a caso in quegli stessi anni gradualmente anche in tutti i paesi europei è cresciuta la detenzione, e non perché siano aumentati i reati, al contrario sono diminuiti i reati, ma perché sono aumentate le leggi che hanno definito alcuni comportamenti di persone, comportamenti che vanno sanzionati col carcere. E va bene, allora che cosa è successo? Intanto queste notizie ci vengono di prima mano da un nostro corrispondente negli Stati Uniti, che salutiamo perché lui ascolta sempre la trasmissione, casomai l'ascolta in differita, scaricandola dal sito, perché a quest'ora sta a lavorare, lì è mattina presto, per mattina insomma a quest'ora negli Stati Uniti. Dunque è che lo salutiamo e gli chiediamo di continuare a mandarci notizie che sono molto interessanti. Intanto il 13 ottobre scorso, quindi qualche giorno, quindi due settimane fa, è terminato un lunghissimo sciopero della fame che era in corso dal 1 luglio del 2011. Uno dei scioperi della fame tra i più organizzati e massicci, quindi con partecipazione di massa, che hanno mai visto il sistema carcerario mondiale. È partito con circa 6.000 carcerati ed è arrivato a 20.000 persone. L'unico fatto è che si è sostanzialmente, diciamo, ha riguardato le carceri della California, con delle puntate in Oklahoma, e lo vedremo poi, no? Però il grosso delle carceri che si sono ribellate sono le carceri californiane. Allora, vediamo, intanto è il 13 ottobre, quindi si è concluso, però non si è concluso nel senso che ha raggiunto una tregua, perché sono in corso, lo vedremo, delle trattative. Allora, il 13 ottobre si è conclusa questa prima ondata di sciopero della fame, anche perché la pressione si è fatta molto forte da parte del California Department of Correction and Rehabilitation, cioè una sorta che è il dipartimento come il nostro DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che controlla le carceri. Il problema era nato, è stato scaturito, ne avevamo già accennato, perché in maggio dello scorso anno lo Stato della California, la Corte Suprema Federale, quindi non dello Stato della California, ma la Corte Federale di tutta la Federazione degli Stati, ha emesso una sentenza contro lo Stato della California, perché lo Stato della California aveva il tasso di sovraffollamento maggiore di tutti gli altri stati. Non solo, ma questo tasso di sovraffollamento, secondo alcune inchieste fatte dalle associazioni dei diritti umani ed altri, ritenevano che questo tasso di sovraffollamento fosse disumano, che cioè il trattamento dei detenuti a quel livello di sovraffollamento rasentava la violazione dei diritti umani, anche dei diritti delle persone recluse. E dunque questo gruppo enorme di associazioni dei diritti umani, associazioni dei diritti dei carcerati e avvocati hanno fatto questo ricorso presso la Suprema Corte Federale, che ha dato loro ragione. E che cosa ha detto? Quindi ha detto allo Stato della California, ha richiesto allo Stato della California che nei tempi accelerati, però con modalità e chiaramente discrezione dello Stato della California, dovesse scarcerare nell'arco di 1 o 2 anni un numero di detenuti in grado, quindi migliaia e migliaia, decine di migliaia di detenuti in grado di riportare il sovraffollamento, diciamo l'affollamento, a livelli fisiologici. Questa è una sentenza. Ora, una sentenza della Corte Suprema ha un certo valore negli Stati Uniti, è un po' come da noi la Corte Costituzionale. A questo punto i carcerati, prendendo spunto da questa sentenza, hanno cominciato una lotta. Ora, ovviamente il livello, non so, probabilmente l'abbiamo visto nei film, abbiamo visto o nei romanzi, sono alcuni molto belli, delle carceri americane. Beh, la realtà non è molto distante a quello che abbiamo visto, che so, in Nick Manofreda o altri. Insomma, a parte che negli Stati Uniti d'America, vi sono diversi gradini, tanti gradini delle carceri, e in Italia sono di meno. In Italia ci sta il 41 bis, quelli ad alta sorveglianza, poi il carcere normale e il carcere di minima sorveglianza, no? Di custodia attenuata. Quindi sono 4 livelli sostanzialmente in Italia, di cui quello centrale, quello normale, è di gran lunga grosso. In quest'ultimo periodo si è completamente ingrossato quello 41 bis, ma semplicemente perché appunto è un meccanismo abbastanza illegale che usa lo Stato per indurre alcuni detenuti della malavita organizzata a pentirsi, perché è l'unico modo per uscire dal 41 bis, ritenuto da tutte le associazioni italiane e internazionali un sistema di tortura, quindi inaccettabile. Però in Italia se ne frega di ciò che dicono i diritti umani. In America, come vedete, sono sicuramente peggiori le carceri, però ogni tanto c'hai una sentenza a te favorevole. In Italia te lo puoi scordare, la magistratura non va mai contro il sistema carcerario, se non recentemente quando ha detto che c'aveva ragione quel detenuto che ha chiesto un rimborso, cioè perché l'amministrazione carceraria lo costringeva a vivere in condizioni disumane, perché appunto, però un ricorso, cioè una sanzione economica esclusivamente. Comunque, quindi hanno cominciato lo sciopero della fame. La cosa nuova, il 1 luglio hanno cominciato uno sciopero della fame. All'inizio è cominciato nel carcere di Pelican Bay. Pelican Bay è un carcere ai confini con l'Oregon, uno dei più duri. durissimo, dove si sta male, si sta in isolamento. Tra l'altro l'isolamento è molto usato come sistema di repressione nelle carceri americane, al punto tale che da lì è partita la prima piattaforma di lotta, dal carcere Pelican Bay. E sono questi 5 punti. Primo punto: ripristino di punizioni per responsabilità individuale a individui colpevoli di una qualsiasi violazione, invece delle punizioni collettive. Cioè, volevano praticamente abolire il famigerato SHU, S-H-U. Lo SHU che cos'è? È un meccanismo che... lo SHU in realtà è una piccola gabbia, è una cella di isolamento, che è molto piccola, che ha praticamente pochi metri quadri, non ha finestre, cioè una situazione, ve lo racconto che cos'è lo SHU, però comunque... è un'unità alloggio sicura, vuol dire unità di alloggio sicura, sicuri, infatti house unity, vuol dire così, una gabbia, una vera e propria gabbia dove sei sempre controllato 24 ore al giorno dall'agente di custodia. Quindi chiedeva, ora, che però lo SHU, oltre a essere questa gabbia dove viene rinchiusa la gente, in realtà è un sistema di punizioni collettivo, una cosa abbastanza fuori dal diritto, perlomeno come lo intendiamo noi, però in America questa cosa ha preso piede. Che cosa succede? Si fa anche qui, no? Però insomma, chiaramente la legge non lo consente, però poi si fa anche qui. Una volta non si faceva, nessun paese, nessun stato di diritto. Lo stato di diritto che cosa dice sostanzialmente? Qual è il punto di forza dello stato di diritto? Che ciascuno è responsabile di quello che fa, punto. No. Dura la legge o meno dura, severa o meno severa, ognuno è responsabile di quello che fa. Io, se faccio un furto, sono responsabile io, non il mio amico, il gruppo di amici con cui mi vedo al bar, eccetera, eccetera. La punizione collettiva in realtà è un po' questa. Invece, se io faccio un furto, quelli mandano dentro me e tutti gli amici con cui mi vedo continuamente, che è un po' una cosa che fa un po' a cazzotti. Infatti, vabbè, diciamo. Per dirla tranquillamente, dobbiamo abbandonare termini come, soltanto gli idioti ormai usano termini come democrazia, stato di diritto, diciamola tutta, per una serie di condizioni storiche, economiche, eccetera, eccetera, di lotta di classe. La democrazia è stato un momento particolare, diciamo, seppure c'è mai stata, ma in realtà non ha mai... come dire, lo stato di diritto è un momento di passaggio, poi può andare avanti o può tornare indietro, in realtà è tornato indietro ovunque. È chiaro che se, soprattutto in una situazione carceraria, cioè dove i reclusi sono insieme, addirittura molto insieme perché sovraffollati, c'è una protesta, questo succedeva anche nei carceri italiani, no? Ovviamente, e c'è una protesta, per esempio, oppure uno di una cella insulta una guardia o addirittura gli dirà una gavettata, qualunque cosa, e in genere puniscono tutta la cella o addirittura tutti il reparto, tutto il braccio. Ecco, questa cosa qui, qui in Italia, nei momenti di tensione, di lotta, si applica. Nei momenti non di tensione, dipende dalla guardia, dal direttore, dal capo delle guardie. In America si applica, soprattutto in questo Pelican Bay, in questo carcere, si applica continuamente. Quindi le punizioni collettive, cioè che in un reparto c'è un gruppo di detenuti o un detenuto che aggredisce una guardia o che fa qualcosa che non fa, puniscono tutto il reparto. E questa è una cosa abbastanza... E loro volevano, primo punto, ripristinare le punizioni collettive, individuali, ognuno, cioè abolire le punizioni collettive e ripristinare la responsabilità individuale. Ognuno è responsabile di quello che fa, punto e basta, gli altri ovviamente no. Primo punto, ovviamente, perché però questa cosa è passata? Perché in realtà non potrebbe essere. Passa con la logica, è come l'associazione sovversiva in Italia, no? Una cosa fuori dalla Costituzione, diametralmente opposta, che però in Italia vengono, oppure devastazione e saccheggio, sono queste formule completamente illegali e appartenenti ai regimi fascisti, ai regimi dittatoriali, ma in Italia la gran parte delle leggi provengono dal regime fascista, non è stato rinnovato quasi nulla di quell'armamentario legislativo che ha prodotto il regime fascista. Qual è la motivazione con cui fanno passare questi meccanismi che sono totalmente illegali, ossia della punizione collettiva? Dicono, ma i detenuti, in questo caso, oppure i manifestanti, sono organizzati per bande. Se sono organizzati per bande e io affermo, ma non non, c'è, non necessariamente ci deve essere una prova, io lo do per acquisito. Dico che in carcere chi fa casino, chi protesta, chi fa rivolte è organizzato per bande. Quindi se ne becco uno, individuo un responsabile, punisco tutta quella che penso essere la sua banda. No, così come succede fuori, no? Associazione sovversiva o devastazione e saccheggio, che sono reati collettivi, vengono dati a qualcuno dicendo: secondo me tu facevi devastazione e saccheggio perché insieme ad altri 150 quelli che avevate organizzato questa attività. Sono cose e non dimostrato, quindi l'illegalità deriva dal fatto che una cosa tirata per i capelli completamente fuori, diciamo, vabbè, da regime fascista, ma ormai ci siamo in pieno titolo noi e anche gli Stati Uniti d'America e un po' tutte le cosiddette ex democrazie, perché appunto applicano questi sistemi, non in tutti i paesi, probabilmente, che so, mettiamo probabilmente in Norvegia e Svezia ancora sono esenti, ma sono rimasti casi più unici che rari. Quindi il primo punto che chiedevano è questo, quindi il ripristino della legge, cioè si punisca i responsabili singolarmente, non collettivamente. Secondo punto, abolizione della politica delle spie e di etichettamento di appartenenza a una banda. Che vuol dire? Intanto la direzione del carcere, e questo avviene in tutti i posti chiaramente, si nutre di spie, cioè detenuti a cui dà delle facilitazioni, delle piccoli premi, e questi gli riportano le cose. In base alle testimonianze di queste spie, la direzione del carcere costruisce appunto le bande e dice: allora Tizio, Caio, Sempronio, bla bla bla, queste 15 persone fanno parte della banda Pinco Pallino. Bene, quindi ogni cosa che fa quel e scrive su un foglio, ogni appartenente alla banda Pinco Pallino, se fa una cosa punisco tutta la banda Pinco Pallino. In base, con le soffiate di queste spie, costruiscono il sistema delle bande e col sistema delle bande puniscono. Questa cosa, attenzione, vedete come dicevo sempre che quello che avviene in America poi avviene pure, questa cosa è in vigore da parecchio tempo in America, dal tempo appunto degli anni 70, quando sono cominciate le grosse rivolte di Black Panther, è cominciata con i Black Panther che erano molto forti in carcere e chiaramente come deterrente terroristico lo Stato statunitense, che è il vero terrorista nei confronti dei detenuti, ha usato questo sistema. E poi la cosa si è sviluppata in Italia, cominciano a svilupparla anche adesso utilizzando per esempio la banda, il gruppo, siccome nelle carceri italiane la grossa presenza di immigrati, questi sono raggruppati nei vari reparti delle carceri per provenienza, che so, i nigeriani stanno tutti nel reparto quello là, i magrebini in quell'altro reparto, i bengalesi e così via, è chiaro che queste vengono ritenute bande, ma senza nessun criterio. Comunque, loro chiedevano quindi l'abolizione della responsabilità collettiva, l'abolizione delle spie, l'etichettamento per banda. Il terzo punto, l'adempimento delle leggi riguardo le condizioni di isolamento, perché quindi sono richieste molto basse, perché dicono sì, accettiamo l'isolamento, però che perlomeno l'amministrazione rispetti le condizioni di isolamento. Nelle condizioni di isolamento devi poter avere ancora dei diritti. Il quarto punto, il vettovigliamento adeguato, cioè poter mangiare, e l'approvvigionamento di cibi idonei al consumo. Il vettovigliamento riguarda anche le coperte, per esempio potersi coprire, perché nel cielo di isolamento spesso si muore dal freddo e non c'hai necessario attrezzatura per coprire. Il quinto punto, espansione e fornitura dei programmi e servizi per i carcerati nelle celle di isolamento. Come vedete, quindi sono richieste molto primitive, se vogliamo, basilari, vitali per sopravvivere in queste condizioni. Questo ci dice che in questo carcere da cui è partita questa piattaforma, il Pelican Bay, l'isolamento è molto diffuso, infatti è molto diffuso, punitivo, quindi è un carcere terroristico. E vediamo, ci rendiamo conto che lo Stato statunitense, l'amministrazione carceraria negli Stati Uniti sempre più diventa terroristica. Bene, una cosa positiva però di questo sciopero della fame, che è durato 3 mesi e mezzo, è che si è messa in piedi un'organizzazione molto capillare, intanto perché per la durata, è riuscita a durare tanto, nonostante le pressioni, eccetera, e tutto il resto. La stampa che descriveva questi criminali che volevano schiacciare i buoni, cioè l'amministrazione penitenziaria, che facevano tutto per rieducarli, cioè ha creato come se fossero i mostri contro i buoni. E vabbè, nonostante questo, però, lo sciopero è continuato. E in continuando ha anche rotto il muro di omertà mafiosa della stampa americana, che c'è qualcosa non dico peggio che l'italiana, perché peggio che l'italiana non credo che ci sia al mondo, però insomma abbastanza brutta, come qui, no, descrivono i modi. Avete visto che è successo il 15 ottobre, cioè la stampa italiana ha dimostrato di essere una delle cose più indegne, più incivili, più squallide, più miserabili, più ignoranti, no? Le finte interviste, Black Bloc, tutti si sono cimentati in queste finte interviste, La Repubblica in testa, il giornale più squallido e di una miseria morale veramente che faceva concorrenza a Libero, a questi giornalacci dell'estrema destra. Vabbè, comunque, la cosa però importante, perché la cosa importante è che appunto questa capacità di organizzazione che ha superato la divisione per bande, che in realtà delle bande ci stanno nelle carceri statunitensi, ovviamente, come in tutte le carceri, non sono tutti quelli che, perché secondo la direzione ha diviso tutta la popolazione carceraria in bande, però le bande ci sono, e queste qui comunque si sono sciolte, diciamo, in questa, o comunque si sono unite tra di loro e tra quelli non organizzati in nessuna banda, per creare delle organizzazioni di reparto tra carcerati, in modo che per stabilire dei canali di comunicazione molto interessanti, molto validi, sia dentro tra reparti del carcere, sia tra dentro e fuori. Questo ha permesso di reggere alla lotta stessa. Allora, questo carcere da cui è partita è un carcere che ha un Pelican Bay, appunto, è un carcere che è uno dei peggiori. Sta in mezzo intanto a una foresta pluviale con un clima spaventoso, l'isola. Se ci stai qualche anno ci rimetti veramente la salute totalmente. Ha una capienza di 2280 carcerati, e però il sovraffollamento era arrivato molto in alto. Le celle misurano 7 metri quadri, quindi 3x2,5, queste, senza finestre, con luci fosforescenti accese 24 ore su 24. Quindi celle che insomma hanno poco di vivibilità. E queste, appunto, queste celle sono chiamate le SHU, cioè Secure Housing Units. Ebbene, in queste gabbie sono finiti, in questo isolamento, su 2280 detenuti, 1111 sono stati condannati, hanno attraversato l'isolamento per più di 10 giorni consecutivi. Ben 78 sono stati tenuti in queste gabbie, gabbie che qui non credo veramente, credo che nessun animale possa sopravvivere a lungo, eppure 78 detenuti sono stati ingabbiati per più di 20 anni. E inoltre, appunto, ultimamente il cibo ha variato, i servizi che diminuivano, eccetera, eccetera, fino a che appunto è scoppiata questa rivolta. Come abbiamo detto, da 6.000 lo sciopero è arrivato a circa 20.000, ha coinvolto per 12.000 aderenti, perché è stato prima sospeso un attimo per fare delle trattative, poi è stato ripreso il 26 settembre e è arrivato a 12.000 persone. Adesso è uscito fuori dallo stato della California, raggiungendo l'Oklahoma e alcuni altri stati. Attualmente è stato sospeso, non è finito il 13 ottobre, sono iniziate delle trattative, ovviamente non fatte dai detenuti perché non sono ritenuti soggetti atti a trattare, viene fatta con delle associazioni dei diritti umani che però sono in stretto contatto con i detenuti. Questo è un po' il punto, poi torneremo su questa lotta che insomma è stata molto importante, non ne ha parlato nessuno quest'estate, tutto è una cosa che ha investito le carceri statunitensi, che ha tenuto per 3 mesi e mezzo uno sciopero della fame. Loro, i detenuti, ovviamente non ci sono detenuti politici in queste carceri, detenuti comuni quindi, eppure hanno preso a riferimento esplicitamente, leggendo i libri dello sciopero della fame di Bobby Sand, ricordate, no, dell'ira, dell'irlandese Bobby Sand che fece questo sciopero della fame, lui poi arrivò fino alla fine, e Quindi avevano preso a riferimento uno sciopero politico molto importante di un detenuto dell'IRA, Bobby Sand, lo sciopero che fecero tutti, il blocco H, il famoso di Long Cash, no? Quel sciopero. E tra i carcerati comuni ovviamente giravano questi libri che conosciamo tutti, no? I libri dello sciopero di Bobby Sand, il blocco H di Long Cash, in cui appunto c'è stato un braccio di ferro enorme tra lo Stato inglese e i detenuti dell'IRA, che erano appunto però politici, erano dentro per questioni politiche. Però ecco, questa cosa è molto importante seguirla, sia perché si sta rimuovendo l'universo carcerario dagli Stati Uniti d'America, e però insomma non è detto che non si attacchi pure ad altre realtà di altre situazioni. Perché è importante per i sistemi di organizzazione che hanno sviluppato, veramente molto importanti, che non si vedevano dai tempi delle Pantere Nere, e che appunto hanno permesso di raggiungere appunto 12.000 detenuti in sciopero della fame. Ha piegato abbastanza prima la stampa, i media, che invece all'inizio li avevano demonizzati, ha fatto breccia nella società, ha messo in moto un sacco di gente, no, che si è messa dalla parte dei detenuti, quindi ha rotto la breccia e ha fatto questa grossa pressione, e la cosa si sta mettendo in moto. Adesso vedremo come vanno queste trattative, saranno ovviamente lunghe e onerose, però insomma il muro di omertà terroristica dello Stato statunitense nei confronti dei carcerati è stato perlomeno infranto. Bene, siamo arrivati a conclusione di questa trasmissione, sono le 16, le 4 del pomeriggio, quindi termina la conta di questo mercoledì 2 novembre. L'appuntamento è ovviamente a mercoledì prossimo, rinnoviamo i saluti e gli auguri per tutti coloro che stanno privati della propria libertà, in particolare per i compagni e le compagne arrestate a seguito del 15 ottobre, e per tutti e tutti l'augurio di una buona libertà. Ricordiamo che appunto è uscita scarceranda, per cui se coloro che sono in libertà, diciamo, se vogliono venirla a prendere qui in radio, poi in radio cioè, possono venire dalle 8 di mattina fino alle, alle 11 di sera, c'è sempre qualcuno per prendere appunto l'agenda scarceranda con il quaderno allegato. Per coloro che ci hanno fatto la che hanno fatto la richiesta di riceverla dalle carceri, stanno avviandosi le